Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Come italiani Sudafrica ci eravamo già fatti riconoscere, mi pare, lo scorso giovedì, ma anche nei turni precedenti. Ne mancavano all'appello due che hanno provveduto ieri. Fabio Capello presentando un'Inghilterra con una difesa da oratorio, ma attribuendo le colpe della sconfitta soltanto all'arbitro, unico in tutto il Regno Unito. Rosetti commettendo ieri sera due errori di rara gravità, uno dei quali, e devo ancora capire perché, passato inosservato. Due errori nella stessa azione. Ne parliamo in dettaglio tra poco. Adesso siamo al completo. Comunque la nostra parte in Sudafrica l'abbiamo recitata fino in fondo. Buongiorno a un italiano superstite in Sudafrica come Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, ancora lontano dall'eliminazione, visto che il biglietto aereo è datato 12 luglio, quindi certo. Credo che... Sei chiamato... Però si può sempre combinare qualche guaio. No. Sei chiamato a salvare il salvabile di questa spedizione all'italiana in Sudafrica. L'errore a cui facevo cenno mi tormenta da ieri sera, perché non ho sentito parlare né in trasmissioni televisive né ne ho trovato tracce, salvo errori ed omissioni sui giornali di stamane. Tevez fa fallo sul portiere in uscita ieri sera sul gol che poi trasforma in area dopo il rimpallo in clamoroso fuorigioco. Perché se tu hai presente l'uscita del portiere messicano, sì. Tevez è in ritardo di un metro e mezzo almeno, mentre il portiere ha già la palla tra le mani. Lui gli va come niente fosse col piede sulle mani o sul pallone o su quello che vuoi, ma il pallone era nettamente in possesso del portiere. Da lì il rimpallo e la palla che schizza all'indietro a Messi e il conseguente fuorigioco. Ma se Rosetti ha un minimo di riflesso, a parte il fatto che era fallo secondo me, ma se ha un minimo di riflesso evita tutto il trolley che è successo dopo, perché fischia fallo sul portiere, perché quella è carica al portiere. No, è vero, questa non, onestamente io ero allo stadio, poi le immagini non le ho più viste e quindi non me ne sono reso conto perché stavo comunque in una posizione abbastanza lontana, però è vero, cioè, la fattispecie è veramente quella di un intervento falloso da parte di Tevez. Col senno di poi non sarebbe successo nulla. Ma siccome il senno non è di poi in questo il caso, senno non è assolutamente di poi. È venuto giù il diluvio, non è venuto giù lo stadio. A me sembra di ricordare che poi parleremo della reazione in Inghilterra e in Messico, anche perché io ho una testimonianza messicana di prima mano. Quelle inglesi ce le abbiamo su tutte le agenzie, i giornali, le televisioni, quello che vogliamo. Mi è venuto in mente che questa cosa del tabellone che manda in onda le immagini in tempo praticamente reale è un problema che era emerso per la prima volta quando tu eri in Corea nel 2002. Guarda, ci ho pensato proprio ieri perché sono stato testimone oculare di questa cosa. Allora, intanto in Corea i maxi schermo erano due, abbastanza grandi e ben visibili, ma con una regia particolare che non era la regia internazionale che poi viene integrata dalle varie televisioni, ma era praticamente una regia molto più spartana, cioè praticamente la camera 1, quella che fa il campo largo dal centro del campo, e ogni tanto qualche dettaglio sui primi piani per chiamare un po' gli applausi del pubblico, ma mai e poi mai nessuno si era sognato di poter far vedere un replay, a maggior ragione sui gol. Io l'ho osservato con grande attenzione in Corea: ogni volta che c'era un gol partiva un cartello con una mascotte, che era la mascotte della manifestazione, che faceva 3-4 salti, faceva l'esultanza normale, e le immagini riprendevano quando le due squadre erano di nuovo al centro del campo con il pallone a centrocampo e si batteva il calcio d'inizio. Quindi veniva completamente oscurato alla visione del pubblico il documento televisivo dell'azione del gol. Quando ad esempio Byron Moreno cacciò Totti nel 2002 per simulazione, perché secondo Byron Moreno Totti si era gettato in area di rigore italiana, lì lo schermo andò di nuovo scomparve di nuovo, cioè venne emessa quella che noi chiamiamo una beauty, cioè una bella immagine dall'alto, ma non ci fu mai il dettaglio dell'intervento, così come non ci fu mai, sempre per quanto riguarda quella situazione, la volta in cui credo fosse Tommasi fermato in fuorigioco mentre stava andando in porta, e invece era regolarissimo, cioè, dallo stadio non si vide mai questa cosa. Ora, non è impossibile sapere le cose perché i telefonini ormai ce l'ha chiunque, quindi è normale ricevere un SMS con scritto era gol, piuttosto che però non ha la stessa immediatezza che vederla come l'abbiamo vista ieri sera, e ti assicuro che ieri sera è stata una cosa molto forte da questo punto di cioè, vista. Cioè, vista dal campo è stata una cosa molto forte, perché è ovvio, con questi due disgraziati di Rosetti e Airoldi, che avendo perso il treno sul fallo di Tevez, poi a quel punto sono rimasti scavalcati dall'avvenimento. Io credo che Rosetti, che in un caso del genere avrebbe potuto tranquillamente aiutare l'assistente, perché è una sequenza che si svolge davanti a lui e la dinamica fa pensare istantaneamente al fatto che Tevez possa finire in fuorigioco, no? Visto che ce ne vogliono due a tenerlo in gioco e il portiere è oltre. Cioè, vedere questi due disgraziati che si parlano, uno dei due dice Paolo perché sta chiamando Calcagno che è dall'altra parte del campo, e cosa può aver visto e cosa, sì, magari ha visto il teleschermo, ma cosa significa a quel punto? Cioè, ma guarda Gigi, ti dico questo, no, io ero non ero in tribuna stampa perché è un posto che non mi piace frequentare, ma a me piace molto girare nello stadio ed ero in una zona un po' mezza, siccome ero lì da appassionato e non stavo lavorando, mi sembrava anche inutile togliere un posto a chi magari aveva bisogno di lavorare. Comunque giravo un po' per lo stadio, ho trovato un posto in una posizione non troppo centrale, ma neanche dietro la porta. Comunque ero dalla parte opposta, non ero molto vicino. Però nel momento in cui Tevez segna, ovviamente dalla nostra parte nessuno si è accorto, perché non hai la profondità, eri veramente dalla parte opposta. Però si vede Tevez che va a festeggiare, Messi che arriva, c'è un'inquadratura grande e larga di Leo Messi che manda un cenno di gioia a Tevez, e poi parte il primo replay. Ora, il primo replay che ha mandato la televisione è esattamente il primo replay che ha mandato lo stadio, ed è quello incriminato, nel quale addirittura non solo la regia ti fa vedere che Tevez è in fuorigioco, ma ferma anche l'immagine e fa partire quella colorazione di area per farti vedere quanto è in fuorigioco Tevez. Quindi è la cosa più clamorosa, è un arachiri totale da parte della FIFA questo. Certo. Ti assicuro che nel momento in cui c'è stato il fermo immagine, lo stesso lo stadio ha fatto un e la O era di offside. Dobbiamo ripristinare il collegamento, ma lo facciamo tra poco, con calma, durante l'intervallo per il traffico. Prima volevo dirvi che la FIFA, per completare la propria messa in stato di ridicolo, stamane ha ulteriormente sfidato, no, il mondo, dicendo, adesso trovo questa dichiarazione, sì, questo è il portavoce ufficiale della FIFA, fa una conferenza stampa ogni giorno sullo stato dell'arte. Quindi stamattina qualcuno si è sentito autorizzato a presentarsi e a dire scusate signore FIFA, ma quei due episodietti di ieri, cioè, non abbiamo intenzione di aprire una discussione sull'operato degli arbitri. Quando qualcuno gli ha fatto notare appunto quanto si diceva adesso, quanto ci stava raccontando Fabio Tavelli, il portavoce, anziché soffermarsi su questo contrasto, trovare un'altra chiave di lettura, ha detto invece testualmente: se il maxi video dello stadio ha mandato in onda quelle immagini in quel momento, significa che ha sbagliato, perché non avrebbe dovuto mostrarle. Torniamo in collegamento con Fabio Tavelli. Mi pare che il problema Rosetti l'abbiamo affrontato, poi tornerà tra poco nelle conversazioni con gli ascoltatori. Io punterei adesso sulla giornata, poi ci sarà ovviamente anche il capitolo Germania-Inghilterra. Molti ascoltatori scrivono che meraviglia questa Germania, e in buona sostanza, e mi pare abbiano perfettamente ragione. Le due partite di oggi, Fabio: Olanda-Slovacchia nel pomeriggio, e lì di nuovo il dentino comincia a dolere, e poi stasera Brasile-Cile. Sì, il dente, io adesso non so a che punto si sia interrotta prima la comunicazione, però credo no, ci fossimo raccontati compiutamente quello che era successo ieri. Detto questo, insomma, la partita di oggi nasconde, a parer mio, non troppe insidie per l'Olanda, nasconde le insidie che l'Olanda potrebbe andarsi a cercare se giocasse una partita sbagliata. Io ho visto che Robben mi sembra ormai completamente a disposizione, ma ha fatto un paio di grandi giocate nella partita scorsa, e insomma non c'è minimamente dubbio che l'Olanda scenda in campo da netta favorita. Sì. E che la Slovacchia abbia fatto quello che le si chiedeva, nel senso che per essere la prima esperienza al mondiale ha fatto già molto, ha eliminato i campioni del mondo in una gara da dentro fuori. A parer mio la Slovacchia si ferma qui e l'Olanda va va giustamente avanti, cioè, mi stupirei tantissimo se fosse una partita equilibrata, proprio perché mentre l'Italia era una squadra che giocava con un po' di paura dovuta al fatto anche di essere a conoscenza, a intima conoscenza delle proprie lacune, l'Olanda è una squadra molto sicura di sé ed è una squadra che tenterà, credo, al primo minuto di far valere la superiore caratura tecnica e siccome anche fisicamente gli olandesi mi sembra che stiano molto bene, soprattutto adesso che hanno recuperato Robben, continuo a pensare che Huntelaar sarebbe meglio dal primo minuto rispetto a Van Persie, ma evidentemente Van Marwijk non la pensa così e avrà certamente ragione lui. Credo che insomma l'Olanda possa e debba passare il turno senza grandi problemi. La stessa cosa dovrebbe fare stasera il Brasile. Il Brasile, aggiorno le quote, è sceso mi pare a 4,5, sì, e adesso per la SNAI è il favorito assoluto per il mondiale, a 4,25, a 4,5 c'è l'Argentina, quindi siamo più o meno alla pari, la Spagna a 5,5, la Germania è scesa, è il caso di dirlo, a 7. Anche perché a questo punto sai qual è il problema, Fabio? Che mentre da una parte del tabellone si profila una discreta discesa possibile per il Brasile, sempre poi da verificare, l'Argentina se vuole arrivare in finale deve probabilmente, cioè, sa già che la Germania ce l'ha e deve prepararsi alla Spagna poi nell'eventuale semifinale. Quindi se l'Argentina dovesse vincere per caso questo mondiale, oppure dovesse vincere la Germania, beh insomma, chi delle due va avanti si becca poi di fila Spagna e Brasile, e quindi il fatto di avere eliminato o Germania o Argentina a seconda del soggetto e poi Spagna o Brasile riporta a una di quelle edizioni tipo l'82 in cui chi vince è campione del mondo per davvero, ecco. Questo senz'altro, ci sono squadre che si sono infilate in parti vantaggiose del tabellone, ma non certo per sotterfugi o quant'altro, ma no, perché certo. Insomma, se gli avversari ti cascano davanti prima e tu non è che ti puoi fermare ad aspettarli, li scavalchi e basta. Io sottolineo anche l'onestà in questo caso della Germania, che a un certo punto nella terza partita contro il Ghana avrebbe anche potuto scegliere un'altra parte del tabellone, perché bastava farsi fare un gollettino dal Ghana che era lì bello tranquillo e il Ghana avrebbe vinto il girone, la Germania sarebbe arrivata seconda e la Germania sarebbe andata a finire contro gli Stati Uniti e poi avrebbe avuto un quarto di finale contro l'Uruguay, quindi con una possibilità concretissima di andare in semifinale, non voglio dirti riposata, però certamente avrebbe potuto fare due calcoli. Che non li abbiano fatti non mi stupisce, perché stiamo parlando di un popolo serio e quindi ci sta. E quindi sicuramente chi viene da la finalista che arriverà da quella parte del tabellone arriverà con la consapevolezza di aver battuto delle grandi squadre, però certamente avrà dovuto spendere molte energie fisiche e mentali, e infatti credo che il primo nemico della Germania adesso sia quello che mentalmente ha speso ieri contro l'Inghilterra, perché è stata una partita di un'intensità mostruosa, credo, al di là poi degli errori, dei limiti, di tutto il resto, credo che la Germania abbia speso davvero tanto anche dal punto di vista mentale. Senti, dato che eravamo partiti con col fatto che gli italiani laggiù si sono fatti riconoscere, no? E ieri Rosetti e Capello hanno colmato le lacune per essere proprio al completo, un minuto per dirci come hai impiegato il tuo tempo libero stamane. Ora, stamattina sono andato a visitare il museo dell'apartheid qui a Johannesburg. Oggi è una bruttissima giornata, adesso fa molto freddo, c'è un vento notevole e il sole non l'abbiamo ancora visto, ma a parte questo avevo già deciso ieri di andarci. È un luogo che ti lascia molto, è un luogo che volutamente non vuol colpirti la pancia ma vuol colpirti la testa, e ci riesce. È un luogo dove credo chi ha deciso di istituirlo non volesse impietosire, cioè non volesse far uscire soprattutto l'uomo bianco con dei sensi di colpa o con le lacrime agli occhi per quello che ha visto, ma che volesse dare al visitatore anche una nozione più che altro storica, più che psicologica o comportamentale. E trovo che ci siano riusciti, cioè è un luogo nel quale ci si può passare anche un paio d'ore. Bisogna sapere l'inglese, perché ovviamente è tutto in inglese, ma è un qualcosa che per chi è da queste parti merita certamente una visita. Ripeto, non colpisce dal punto di vista della pancia come può colpire andare a Gerusalemme, piuttosto che in qualsiasi, non so, a me aveva colpito moltissimo il ghetto ebreo di Praga, però è un qualcosa di forte ed è un qualcosa che mi rimarrà per molto tempo, credo per sempre ovviamente. A domani, Fabio. A domani, a tutti voi un buon pomeriggio. Grazie, chiudiamo questo collegamento con Sky Sport 24, la redazione centrale di Johannesburg. Durante questo mondiale ci sono già due ascoltatori collegati, abbiamo qualche buon frammento gustoso di ieri da aggiornare. Una curiosità, che questa me la segnalate Nicola Filippone, insieme nel pacchetto, no? Nel pacchetto mattutino in cui arrivano le date di sembra ieri, cioè le date di questo 28 giugno. Queste sono due curiosità, una è particolarmente gustosa e ha un certo fascino. Prima di Thomas Müller, l'ultimo under 21 tedesco, perché Müller non ha ancora 21 anni, a segnare due gol nella fase finale di un mondiale era stato nel 66 contro la Svizzera un certo Franz Beckenbauer. E poi un'altra che mi sembra discretamente incoraggiante, no? Per la carriera di Müller, un raffronto del genere, seppur in altro ruolo. L'altra è che in 23 partite la CT dell'Argentina, Maradona non ha mai pareggiata una, e questa è un'altra. Qualcuno l'ha persa durante la qualificazione, ma non ha mai pareggiato. Questa è un'altra curiosità. C'è in linea Angelo da Genova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, sì, che sia buona la linea, meno. Ripeschiamo Angelo, intanto andiamo a Catania da Renato, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, sì. Grazie per la possibilità. Le volevo dire, so che lei è contrario, comunque le volevo chiedere, ma nei casi eclatanti come ieri per esempio, avere la possibilità per una squadra magari di avere, che ne so, due occasioni per avvalersi della moviola in campo in casi così eclatanti, non potrebbe essere una cosa che rende... per rendere più giusto, diciamo, lo svolgimento delle partite, per non forzarle quando ci sono questi... È chiaro che non si può chiedere la moviola in campo per il fallo laterale da invertire o per il fallo a centrocampo, però magari... Renato, è lì che si arriverebbe però con la moviola. Io distinguerei molto i casi di ieri. C'è un caso che è inammissibile che nel 2010 possa verificarsi, che è quello del gol di Lampard non visto. Perché questo è troppo. Il fatto stesso che succeda tra le stesse due squadre del 66, con una differenza sostanziale, che nel 66 fu praticamente impossibile stabilire se quel pallone era entrato o meno, e questo dubbio si è trascinato fino a non molti anni fa, quando un'equipe di specialisti ha riesaminato quel filmato, la rimodella, non mi chieda come hanno fatto, però hanno stabilito scientificamente che la palla di Hurst non era entrata e che quindi era stata danneggiata la Germania. Ieri, detto tra noi, bastava l'occhio nudo per vedere quel pallone, però è anche vero che queste cose possono accadere perché Lampard tira in maniera velocissima, l'assistente, se lei nota, a differenza di Airoldi che dopo fa una cappella spaventosa, dopo intendo la sera, l'assistente di ieri pomeriggio è perfettamente posizionato, cioè è sulla linea dell'ultimo difensore tedesco, e quindi è chiaro che è 10 o 15 metri, forse 15, dietro alla lontano dalla linea di porta, e quindi non è nelle condizioni di vedere al meglio. Ora, che la FIFA non abbia ancora trovato o non abbia ancora adottato, tra i tanti sistemi possibili, perché stamattina per esempio il Corriere della Sera ne elenca alcuni, sono dagli arbitri d'area di rigore richiesti da Platini, all'occhio di falco che è in uso nel tennis, al pallone col microchip che suona quando la palla supera la porta, ai sensori posti sui pali, insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta, no? Si tratterebbe di non essere ridicoli, perché non che almeno si possa stabilire tecnologicamente se la palla è entrata o meno, mi sembra il minimo sindacale. Sul resto io continuerò a non essere d'accordo, perché sostengo che l'errore che ieri fa Rosetti, che ripeto è duplice perché per prima cosa non vede la carica al portiere di Tevez, è un errore gravissimo, della stessa forza di quello che compie il portiere inglese nella prima partita. E allora continuo a non capire, nello spirito del gioco, perché un portiere, piuttosto che un attaccante davanti alla porta, possa commettere un errore sesquipedale senza che il gioco ne risulti snaturato, e invece non possa commettere lo stesso errore un arbitro. Ma questo ovviamente è oggetto di riflessioni, discussioni, e si può andare avanti all'infinito da questo punto di vista. Mentre nel primo caso, secondo me, davvero è inammissibile, nel secondo io credo che si aprirebbe una slavina, una valanga, e poi appunto si arriverebbe, come dice lei, non a due ma a cinque chiamate a partita, perché ci sarebbe Fabio Capello col mascellone duro che chiede di rivedere come è stato battuto quel fallo laterale. Sentiamo il commento di Diego Maradona su questa disastrosa serata di Rosetti, e poi sentiamo la sua dedica particolare di questa vittoria argentina. La vittoria sempre si sente bene quando è vittoria, sia come giocatore sia come allenatore, no? Non ci sono grandi differenze, solo che quando sei in campo puoi correre, puoi dire delle cose che nella panchina non puoi dire, perché oggi a Rosetti volevo dirle delle cose che a me pare che oggi Rosetti ha sbagliato tutto, ha sbagliato moltissimo, no, darle il cartellino giallo è la prima che le dà Torrado a Messi, già sta, è finita. A proposito, voglio dedicare a Valentino Rossi questa mia partita, per il mio amico Valentino Rossi che sta male, che si è fatto male, le dedico questa vittoria. E questo era uno dei siparietti finali di Diego Maradona. Avevamo recuperato la linea con quell'ascoltatore di Genova. Angelo, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Dica. A tutti. Senta, una mezza convinzione, forse mi sbaglierò. Ecco, se Buffon, nelle sue normali condizioni di efficienza, avesse occupato, diciamo così, avesse interpretato la sua posizione nella porta della nostra nazionale, l'Italia avrebbe superato il girone oppure no, secondo lei? Angelo, non so. Se il Buffon di 4 anni fa probabilmente risponderei di sì. Il Buffon di quest'anno, perché ai miracoli ci aveva abituato. Il Buffon di quest'anno mi pare che fosse sempre Buffon e quindi fosse di gran lunga il migliore dei portieri nostrani, ma che coi miracoli avesse già un pochino meno di confidenza, e poi si è capito anche perché ai normali infortuni di routine aggiungeva anche questo problema serio, che certamente non è cominciato del tutto lì, e quindi tenderei a dire di no, anche se poi, voglio dire, non c'è controprova. Mi veniva in mente piuttosto prima che rispetto al capello di ieri, mi pare abbia fatto molto miglior figura l'Italia nel dopopartita, perché insomma volendo un paio, certo non un pallone dentro di un metro, questo no, ma volendo un paio di cosine da dopopartita, un paio di attenuanti a cui aggrapparsi, e cioè sto fuorigioco di Quagliarella di 5-6 centimetri a esagerare, e quel pallone respinto sulla linea, ma magari insomma lì a cavallo, potevano anche essere due alibi a cui attaccarsi, o comunque perlomeno da provare ad accampare, no? Se non altro da buttare lì. Beh, non l'ha fatto nessuno, non l'ha fatto nessuno della spedizione azzurra, dai dirigenti, all'allenatore e ai giocatori. Questo mi è sembrata nel disastro complessivo una prova di grande serietà che non era stata evidenziata, perlomeno non da me, in tutti questi giorni, quindi ci tenevo a dirlo. Giovanni, Bologna, buongiorno. Buongiorno Garantini, non so quanto c'entri col calcio, però la Germania mi è sembrata una bellissima sorpresa, pensando anche al paese dove nel secolo scorso il razzismo eugenetico antisemita è attecchito in modo devastante. Adesso questa squadra piena zeppa di gente che viene da tante culture, mi sembra un bel segno, ecco, per il calcio e anche per il nostro mondo, cioè il fatto che tante culture e anche persone di religioni diverse possano giocare insieme, queste persone mescolate che sono nate da genitori di un paese o di un altro possano ottenere un risultato così bello. Io che non sono mai stato tifoso della Germania. Certo. Ecco. No, è un'eccellente osservazione, Giovanni, perché è una proiezione nel futuro, cioè è un futuro che è cominciato da tempo, è un futuro che per esempio i francesi, grazie al quale i francesi nel 98 vinsero il mondiale, chissà che non succeda anche alla Germania quest'anno, ma in ogni caso è qualcosa di vero. Poi mica stiamo qua sempre solo a parlare di fuorigioco, di palloni entrati o usciti, averne di interventi come il suo, la ringrazio davvero. C'è Mauro da Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Una domanda che avrei voluto farle prima che iniziasse il campionato del mondo, e non adesso che si sa già chi incontra chi. Un suo pronostico, sperando che non abbia cambiato idea nel frattempo, un suo pronostico su chi farà la finale e chi vincerà il campionato del mondo. Grazie. Ma guardi, prima del mondiale avrei detto Spagna, e sarei stato molto banale, come tutti gli altri. Questo pronostico me l'hanno chiesto anche da qualche giornale, qualche rivista specializzata. A tutti ho detto Spagna, ho detto Villa capocannoniere, questo prima. Adesso non sono più così convinto, o meglio, posso ancora giocarmela su Villa, sulla Spagna un po' meno, ma certamente le azioni della Spagna sono in crescita. Non avrei certamente indovinato poco, perché non avrei indovinato. Chi vince è più difficile, secondo me. I pronostici più attendibili sono, non so, per esempio, quali erano le 16, quali potevano essere le 16 che andavano agli ottavi di finale. Lì diciamo che 5-6 non le beccavo proprio, perché sono arrivate nelle squadre abbastanza impensabili. E d'altra parte, non so, nel girone di Francia e Sudafrica, per esempio, io avrei pronosticato quelle due, non dico sicuro, ma quasi. Ci sono andate l'Uruguay e il Messico. Il Messico poteva essere un'alternativa dopo quell'amichevole con l'Italia, però vede, comunque adesso non saprei. Io credo che, per come sono lanciate, per quello che si è visto fino adesso, chi passa il turno tra Argentina e Germania diventa una squadretta da tenere sott'occhio, però è anche vero che la Spagna è partita più adagio e si sta sbloccando. Il Brasile, come fai a escludere il Brasile da un pronostico qualsivoglia? E quindi divertiamoci. Enzo, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Una domanda velocissima. Sì. Ma se l'Argentina vince il mondiale, Maradona è l'unico uomo sulla terra ad averlo vinto, sia come calciatore che come allenatore? No, guardi, come minimo ce ne sono due che mi vengono in mente. Uno credo che sia Schön, il tedesco che ha vinto praticamente tutto forse non ha mai vinto il mondiale, però. Schön è Helmut Schön, era uno che ha segnato non so più quanti gol con la maglia della nazionale tedesca alla fine degli anni 30, ma quindi stavo dicendo una fesseria, perché c'è uno score impressionante, l'ho letto nei giorni scorsi, una cosa tipo 41 gol in 37 partite, una roba del genere. Però ovviamente, avendo vinto l'Italia i mondiali dell'anteguerra, non può aver vinto un mondiale. Poi è diventato tecnico e da tecnico ne ha fatte di ogni colore. No, l'unico sicuro è Zagallo. Zagallo, perché il brasiliano ha vinto da giocatore nel 58 e direi anche nel 62. Nel 58 sicuro, perché era l'ala storica, Garrincha, Didi, Pelé, Vavà, Pelé, Zagallo. E nel 62 credo l'abbia vinto ancora, e poi l'ha vinto da allenatore nel 94, quindi questo certamente sì. Il capello di ieri. 2-0, 2-1, 2-2. Probabilmente sarebbe stata un'altra partita, perché poi abbiamo subito dei contropiedi che, essendo sbilanciati in avanti, cercando di raggiungere il risultato. Però la cosa sorprendente è che un mondiale nel periodo della massima tecnologia non ci sia né la tecnologia per decidere se è gol o non gol, e neanche messo il quinto arbitro di dietro alla porta. Purtroppo qualcuno deve sempre pagare prima che questo venga effettuato. Mi dispiace, ma però è così. Germania è una squadra molto veloce, molto molto rapida. Quando ripartono hanno grande qualità e grande velocità. Noi abbiamo cercato di mantenere il possesso palla, non è che ce lo permettessero molto. Però, insomma, sai, io credo che noi, quando ci eravamo risvegliati, venuti fuori, loro erano in sofferenza, perché anche nel secondo tempo, prima del loro terzo gol, siamo andati vicino, abbiamo colpito una traversa, abbiamo fatto delle azioni pericolose. Loro sono stati molto bravi, hanno questa capacità di partire in contropiede con della gente con grande qualità. Ritorno alla risposta a Enzo, l'ascoltatore milanese di prima. Non soltanto Zagallo, anche Beckenbauer vinse il mondiale nel 74 da giocatore e poi lo rivinse da selezionatore qua in Italia nel 1990. Argentina, i messicani, sentite in sintesi, perché non abbiamo purtroppo l'audio, della conferenza stampa di Aguirre di ieri sera dopo dopo la partita. Abbiamo giocato bene, nel primo tempo eravamo superiori, c'è un prima e un dopo il gol che abbiamo preso, perché sono stati due errori che hanno cambiato l'esito della partita. Da quel momento abbiamo perso lucidità e concentrazione e ora non posso fare altro che complimentarmi con l'Argentina. C'è comunque un'ottima generazione di giocatori giovani messicani, vedrete che verranno fuori. Se resto ne parlerò con i dirigenti federali. Non voglio parlare dell'arbitro, però il suo errore poi ci è costato anche il secondo gol, perché la sua decisione ci ha deconcentrati e il secondo gol è il prodotto del primo. Beh, insomma, mi sembra comunque come tono leggermente diverso da quello che abbiamo sentito appena prima. Alessandro Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo dire un pensiero riguardo gli errori arbitrali, che sì, non necessariamente è il mio pensiero, ma mi è venuto in testa. Il portiere dell'Inghilterra, Green, se mi ricordo, non ha avuto una seconda occasione su quel tiro dell'americano, no, come anche il nostro attaccante, non so se Quagliarello o chi fosse, per arrivare al 3-3, non ha avuto una seconda occasione. Mi chiedo, è giusto dare all'arbitro una seconda occasione? Dipende da come, insomma. Io per Rosetti e per Larionda in questo mondiale la escludo e credo proprio che andrà così. Allora, Beckenbauer è tutto giusto, perché poi qui in questi casi si scatenano gli ascoltatori. Beckenbauer è giusto, invece Zagallo da allenatore vinse nel 70. Nel 70, ma mi sembra un po' prestino 70, perché nel 94 c'era Carlos Alberto Parreira e lì credo che sia abbastanza vero. Nel 70 mi sembra un po' prestino, ma invece può darsi che sia, perché Zagallo era già discretamente avanti in età quando giocò nel 58 e nel 62 e quei due lì li vinse certamente da giocatore. Questo è il momento del ripasso, come sapete, della storia dei mondiali specifica, il 28 giugno ricostruito da Nicola Filippone. Sembra ieri. 28 giugno 1994. A San Francisco la Russia, già eliminata, spegne le residue speranze di qualificazione agli ottavi del Camerun, imponendosi per 6-1. A trascinare i russi alla goleada è l'attaccante Oleg Salenko, che va a segno 5 volte. Si tratta tuttora del record di reti in una sola gara nelle fasi finali dei mondiali. Rimanendo in tema di record, il gol della bandiera camerunense porta la firma del mitico Roger Millat, che a 42 anni e 39 giorni diventa il più anziano marcatore della Coppa del Mondo. E questo era la Marcord ufficiale. Poi, come sempre in questi giorni, Nicola Filippone mi inonda di puntuali, come dire, notazioni a margine. La prima è che quel giorno, quella goleada di cui ci ha parlato di Salenko, valse la qualificazione all'Italia, perché l'Italia nel 94 fu ripescata dopo l'1-1 contemporaneo di quello stesso giorno, 28 giugno 94, per l'1-1 con il Messico, che non bastava a inserire l'Italia nelle prime, e ci fu questo ripescaggio. E poi ci sono invece due marcor francesi che in questo momento di disastro francese faranno certamente piacere a loro. Il 28 giugno 58 la Francia batté 6-3 la Germania nella finale al terzo posto e va bene, ma soprattutto Just Fontaine segnò gli ultimi 4 gol di quel suo mondiale trionfale, arrivando a quota 13, che è tuttora un record imbattuto e a parer mio inattaccabile. Lo stesso 28 giugno del 98 fu un Francia-Paraguay agli ottavi di finale a Lens. Vinsero 1-0 i francesi con un gol di Laurent Blanc, prossimo commissario tecnico, a 7 minuti dalla fine dei supplementari, e fu il primo golden goal mondiale, nel senso che allora valeva la formula per cui chi segnava vinceva e la partita si interrompeva in quel momento. C'è in linea Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo fare una considerazione sul primo gol dell'Argentina di Tevez. Cioè, a mio avviso Rosetti ha sbagliato due volte, perché al di là del fuorigioco che era sacrosanto, ma secondo me deve aver commesso anche un fallo sul portiere, perché è andato deciso con la gamba, che poteva anche creare un incidente grave, che mi ha ricordato Cech del Chelsea, il portiere. Paolo, Paolo, a che ora si è sintonizzato lei su Radio 24? da poco. 10 minuti fa. Questo è un peccato, lei deve ricordarsi e sollecitare anche i suoi amici e compagni di ascolto, insomma, ad anticipare un pochino, perché all'inizio abbiamo parlato a lungo di questo aspetto e io sostengo che l'errore più grave che Rosetti ha commesso ieri sera è proprio quello che lei segnala, e cioè non aver fischiato, non aver sanzionato il fallo sul portiere netto e pericoloso anche di Tevez. Poi il fatto che il portiere non protesti non significa nulla, non può essere punito il fair play, questo è per l'ennesima volta andrebbe ricordato, cioè, grazie a chi si comporta educatamente, ma il fallo c'era e l'azione andava interrotta in quel preciso momento. Certo che il numero di sms arrivati in tempo reale su Beckenbauer e Zagallo è assolutamente impressionante. Alla fine vince Zagallo perché Beckenbauer, per carità, ha vinto un mondiale da giocatore e da grande protagonista nel 74 e nel 90 da commissario tecnico. Zagallo però ha esagerato, perché ha vinto 58 e 62 da giocatore, 70 da allenatore e 2002 in Corea e Giappone da assistente dell'allenatore, dopo aver già fatto lo stesso ruolo nel 98 da assistente allenatore, finendo secondo alle spalle della Francia e perdendo la finale. Riccardo Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. Innanzitutto mi scuso già, perché anch'io ho perso l'inizio della trasmissione, era dal medico, quindi spero di essere scusato. Beh, allora sì, allora sì. Una roba al volo, indipendentemente dalle scuse di Cappello, che non hanno alcun senso perché la Germania è stata superiore. E senza entrare nel merito, Moviola in campo, no, io sono contrario. Però sono anche contrario al fatto che se non viene applicata non ci devono essere maxi schermi dove il pubblico vede e l'arbitro non può vedere. La trovo una cosa assurda. Delle due l'una, o non metti i maxi schermi e non metti la Moviola, ma se metti i maxi schermi come fa un arbitro a non guardare, soprattutto magari essere condizionato. Sono d'accordo con lei, non Riccardo. Non so se l'avete detto o no, però la trovo una roba assurda. Io mi viene da ridere l'idea che Rosetti magari non veda il maxi schermo quando 80.000 l'hanno visto, lo certo, prendono anche in giro. Certo. È tutto qua. No, ma ha ragione, è uno dei tanti paradossi. E a proposito di paradossi, ha ragione la FIFA stamattina, il portavoce FIFA, quando dice non bisogna più far vedere le immagini sui maxi schermi. In realtà questa sarebbe una riflessione che avrebbe diritto di cittadinanza se fosse stata premessa da se avesse avuto come premessa qualche altra riflessione sul fatto che insomma, errori di questo genere devono comunque poter contare su di un minimo di consulenza, ma se non di questo genere, del genere al pomeriggio, se non altro, perché quello è poi il vero clou, no? Il vero motivo del contendere. Non è possibile che nel 2010 non si veda se una palla, non si possa stabilire una volta per tutte se una palla è entrata o non è entrata. Claudio è in linea dalla provincia di Udine, buongiorno. Buongiorno a lei, le rubo un secondo su Inghilterra-Germania. Stanno decantando tanto la Germania, comunque l'Inghilterra ha saputo reagire a due gol, uno vabbè non è stato convalidato, sarebbe stato 2-2. E sappiamo tutti il valore dell'allenatore, il valore della squadra. Mi dispiace un po' per l'Inghilterra perché sono un simpatizzante, e comunque spero che fra 4 anni in Brasile, con queste premesse, ne vedremo veramente delle belle. Sì, delle belle con quale guida tecnica, perché io credo che sia un problema di 4 giorni più che di 4 anni per Capello, stando alle ultime notizie che arrivano dall'Inghilterra, ma questo si vedrà. Io non sarei così ottimista nei panni suoi, perché mi pare che insomma, sia ormai talmente cronico il deficit inglese alle grandi manifestazioni da non lasciare grandi margini di speranze, anche se questo per la verità non si può mai dire, ma insomma, se le squadre sudamericane, Brasile compreso, si comportano in questa maniera, cioè con una superiorità complessiva, sto dicendo netta, in Sudafrica e quindi in campo neutro tutto sommato, immagino che giocando in Sud America la loro superiorità potrebbe essere anche più netta. 8 milioni e fischia di persone ieri sera per Argentina-Messico, vuol dire che il 40% di share su Rai 1 è tanto, perché poi va aggiunto il numero di Sky, che certamente in questi periodi galleggia sempre tra il 7 e il 10%, insomma si arriva a grosso modo a un televisore su due acceso ieri sera su questa partita, che riguardando Argentina e Messico significa che l'appeal dei mondiali, se non altro, è intatto indipendentemente dall'Italia dentro o fuori. Antonio Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, grazie per l'opportunità e per la compagnia che mi fate tutti i giorni. Allora, aggiungiamo allo share anche per chi abita al nord, coloro che vedono la Svizzera tramite il digitale terrestre, perché anche lei, la TV svizzera, dà le partite. Certo, anche Capodistria per chi invece è nell'estremo nord-est. Allora, io chiamo perché con l'avanzare del tempo io sto diventando anche nella mia vita un po' l'avvocato del diavolo. Io non so se avrò mai questa soluzione, però io penso, ho pensato che secondo me, dietro il dialogo fra Airoldi e Rosetti, mentre decidevano se dare questo benedetto gol o no, per me è venuto fuori che Rosetti era tentato a non dare il gol, però Airoldi ha detto dobbiamo dare il gol, malgrado abbiamo visto sul tabellone che il fuorigioco c'è, però per non fare casini con la FIFA, secondo me hanno dovuto per forza dare il gol per non creare un precedente. Io ho questa idea, lei me la commenti e io la ascolto. Ma cosa, c'è poco da commentare, è probabilmente così, però questo non toglie l'errore di prima, le ripeto, è un errore, è un triplo errore, lo fa l'assistente uno e ne fa due Rosetti, e comunque ne fa due anche l'assistente, perché lui stesso è in asse per vedere che Tevez va sull'uomo e non sul pallone, e l'uomo è il portiere in uscita. Dopodiché non vedere che dalla carambola, cioè ignorando questo, che era secondo me l'irregolarità che era più che sufficiente a troncare l'azione, non vedere che uno resta davanti come un palo della luce per deviare in porta il pallonetto di Messi, sbagliato tra l'altro, perché uno col piede di Messi da lì mi aspetto che la metta direttamente in porta, non certamente sulla testa di Tevez, che non può non essere in fuorigioco. Insomma, è successo di tutto in quell'azione, e quando il calcio si scatena per creare un caso, tutti i fattori concorrono in maniera determinante. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione, ci sentiamo domani. A tempo di sport.